cioè sapere se rispetto ai programmi, ai propositi della campagna elettorale, eccetera, poi si è riusciti, quanto si è riuscita a tradurre in leggi o in atti di indirizzo del governo regionale. Ma comunque questa molto discutibile o abbastanza discutibile relazione diventa assolutamente inadatta e impropria se trasferita a livello nazionale, a livello statale. Questa analogia sindaco, presidente della regione, presidente, primo ministro, è un'analogia impropria, appunto la famosa battuta segni il sindaco d'Italia, il presidente del Consiglio come sindaco d'Italia, il sindaco di Cernobbio citato dal presidente Pera, che diceva che il presidente del Consiglio italiano aveva meno poteri del sindaco di Cernobbio, perché il sindaco di Cernobbio, se sfiduciato, produceva appunto aveva dalla sua la crisi anche del Consiglio comunale. È impropria perché i poteri della Camera dei Deputati in questa riforma sono poteri che coinvolgono aspetti delicatissimi, cioè l'attuazione delle leggi che attuano i diritti civili e i diritti sociali, l'ordinamento giudiziario, il sistema radiotelevisivo, le leggi elettorali, i trattati di integrazione per l'Unione Europea e così via. Cioè, diciamo, c'è già una assoluta differenza tra il tipo di oggetti di cui si occupa la Camera dei Deputati e quella di cui si occupa il Consiglio regionale, con garanzie ridotte appunto a minimo anche di discussione, perché il Presidente, perché il Governo può chiedere che decorso il termine, cioè può chiedere per esempio che i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso siano iscritti all'ordine del giorno. Il Governo può inoltre chiedere che decorso il termine la Camera dei Deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. Questo è un istituto che deriva dalla Costituzione francese del 58. I regolamenti parlamentari stabiliscono altre modalità per i tempi, per le minoranze, eccetera. Ma questo significa che anche il potere di emendamento può essere estremamente compresso, del tutto compresso. Questa situazione che è diversa da quella del governo parlamentare classico, non solo perché la Corte Costituzionale dice che non ci sarebbe un vero e proprio rapporto fiduciario nelle regioni, nei comuni, ma perché effettivamente si presenta come una formula per la vita parlamentare, per la rappresentanza politica, che colloca la Camera dei Deputati italiana, collocherebbe la Camera italiana a un livello di assoluta inferiorità nella scala dei poteri dei parlamenti. Il Parlamento che è meno condizionato, come sapete, è quello nelle repubbliche presidenziali, perché il Presidente è stabile per 4 anni, il Presidente americano, però non può né porre la questione di fiducia né sciogliere le Camere. E quindi quello è il Parlamento ancora oggi più forte, per questi motivi o anche per altri, che non sto a esaminare. E in secondo, nella graduatoria, vengono i Parlamenti molto più compressi, indubbiamente, i governi in cui i parlamenti in cui il governo si presenta proprio come comitato direttivo del Parlamento, che indirizza la produzione legislativa, e questo si verifica in Inghilterra, in Germania, in Spagna, e nella media dei governi parlamentari più stabilizzati, più forti, c'è indubbiamente questa prevalenza, questa preminenza del governo. Ma da noi saremmo ancora molto più giù, cioè ci sarebbe una sorta di dominio, ecco, di questo primo ministro, che può porre la questione di fiducia senza modificare il governo, senza chiedere lo scioglimento, recando soltanto segno irrevocabile dell'indipendenza, cioè il fallimento dell'impresa di merda, nel senso che non esiste forma di governo parlamentare in cui non sia sostituibile a certe condizioni il Presidente del Consiglio, il Premier. Ecco, immaginatevi che faccio un caso paradossale, che il Parlamento, che il Camera dei Comuni non avesse potuto decidere né sul tema della fiducia né sul Parlamento, né sul governo Twitter, perché erano nel corso di legislatura delle modificazioni del testamento del Presidente e certamente del Primo Ministro, e certamente era totalmente estraneo alla potenzialità della Costituzione. Poi praticamente questa è l'eccezione, ovviamente, il caso Thatcher e altri casi che però non sono isolati, ecco, però rappresentano ancora una sorta di eccezione rispetto a una regola di quinquennati, di legislature lunghe, fatte con un presidente, con un primo ministro che però deve fare i conti, non è una camera di registrazione, la Camera dei Comuni, come si dice troppo spesso, perché abbiamo visto che per esempio sulla legge sulle tasse universitarie e su altre questioni c'è stata una resistenza, pure un uomo molto popolare come Blair, che ha vinto 3 elezioni di seguito. Quindi, in cosa consiste poi tecnicamente questa superiorità? Consiste nel fatto che, pur essendo prevista una mozione di sfiducia nei confronti del governo, che può essere approvata dal Parlamento a maggioranza assoluta, ma non è tanto la un numero di deputati appartenenti alla maggioranza pari alla metà più uno di tutti i componenti della Camera dei Deputati. Ecco, per cui si passa, non so, volendo applicare i numeri inglesi a quelli italiani di oggi, 340 col premio di maggioranza, ecco, basterebbero 171 ove fosse un premio di maggioranza stretto, non ci fossero più deputati ancora. Basterebbero 171 in una sede privata per rovesciare un primo ministro di un partito che, non essendo più in base alla convenzione inglese leader del partito, non potrebbe chiedere alla regina lo scioglimento della Camera dei Comuni. Ecco, tutto questo si mescola invece con un criterio proprio dell'intera composizione della Camera dei Deputati, e quindi porta 630 deputati, porta da 171 a 316 l'asticella dei voti che si devono conseguire per operare questa sostituzione, il che ovviamente crea una quasi impossibilità pratica di sostituzione. Quindi questa costruzione che tutti i politologi hanno respinto, da Sartori a Gianfranco Pasquino, anche quelli che erano favorevoli al sistema semipresidenziale francese hanno respinto, e anche coloro che più hanno insistito sul carattere personale oramai dei partiti, come Calise, ritengono che mummificare in questo modo, ecco, la titolarità di queste, della carica del primo ministro, eccetera, e sia effettivamente qualcosa di improprio, ecco, volere fermare la storia al giorno in cui si è votato rappresenta qualche cosa di anomalo che colpisce non tanto la forma di governo parlamentare, perché si potrebbe trovare anche, secondo la maggior parte delle opinioni, fino a 20 anni fa, per esempio la Iotti riteneva che non si potesse legittimamente all'interno dei principi supremi cambiare la forma di governo. Poi buona parte della dottrina ritiene che di per sé sarebbero anche, si potrebbe anche cambiare la forma di governo, ma il problema più che nella forma di governo, dire allora non è più una forma di governo parlamentare, è una forma di governo come quella di cui si è discusso in queste sentenze, di cui si è costruito in queste sentenze della Corte Costituzionale una forma di governo per le regioni a parte. E il problema è della democrazia, il problema è che si violano quelli che sono gli equilibri fondamentali. Non esistono solo, non cadete nell'inganno di credere che i principi fondamentali siano solo supremi, siano solo nella prima parte della Costituzione, sono anche nella seconda, perché per esempio il principio dell'indipendenza della magistratura o il mantenimento della forma repubblicana, articolo 139, sono nella seconda, ovviamente nella seconda parte della Costituzione. Ma c'è una sentenza della Corte Costituzionale, la 360 del 96, contro la reiterabilità dei decreti legge, in cui viene detto esplicitamente che ci sono degli equilibri fondamentali della forma di governo che non possono essere violati. Quantomeno, ecco, secondo me, anche a voler ammettere la possibilità di cambiare forma di governo, bisognerebbe che ci fossero all'interno della nuova forma di governo degli equilibri di poteri, di controlli, di pesi, di contrappesi, di bilanciamenti che consentono di mantenere la nuova forma di governo nell'ambito della forma di Stato democratica. Qui è in gioco, ecco, attraverso queste modifiche della forma di governo si rischia di mettere in gioco, di violare proprio principi che attengono alla democrazia, alla vita democratica, alla continuità della vita democratica, che non può essere bloccata all'atto elettivo ogni 5 anni. E questo è diciamo il quadro, che poi si riflette in situazioni di prevalenza anche nella direzione dei lavori, nella possibilità, con questa posizione della questione di fiducia che è esclusa solo per le leggi costituzionali e per le leggi di revisione costituzionale, questa sudditanza del Parlamento si manifesta proprio in questo modo di porre la questione di fiducia, che richiede al Parlamento un atteggiamento conforme alla richiesta del Primo Ministro. Se la risposta non è conforme, si arriva appunto allo scioglimento. Allora questo temperamento, abbiamo visto, è un temperamento in gran parte apparente, che potrebbe funzionare la sostituzione solo in caso sostanzialmente di dimissioni del Primo Ministro, perché allora anche quel gruppo di fedelissimi che altrimenti può salvarlo da quel quorum altissimo della sfiducia costruttiva interna. Se fosse già scontato il fatto che il Primo Ministro si è messo da sé fuori gioco, e quindi in quel caso forse la sfiducia costruttiva interna potrebbe anche dar luogo a una sostituzione, perché il Premier ha rinunciato lui stesso a giocare questa carta difensiva. Poi, per quello che riguarda il procedimento legislativo, indubbiamente siamo in una scelta molto infelice anche sul piano funzionale, perché questo criterio di leggi in cui prevale il Senato, leggi in cui prevale la Camera in generale, e leggi bicamerali e leggi in cui il Presidente, i procedimenti legislativi in cui il Presidente del Consiglio può spostare l'ultima parola dal Senato, in cui non ha la maggioranza, alla Camera, in cui ha la maggioranza, tutto questo indubbiamente produce delle gravi difficoltà di funzionamento, perché sappiamo che i confini tra competenza statale e competenza regionale danno luogo ad elaboratissime e travagliate sentenze della Corte Costituzionale, per cui bisognerebbe che ci fosse un organo, diciamo, che all'inizio del procedimento legislativo garantisse che non si sorpassano questi confini, ma praticamente questo è impossibile e si rischia effettivamente di incentivare ancora di più la predominanza del primo ministro, perché, come è stato già accennato, se il procedimento non funziona per una ragione o per l'altra, possono sopravvenire decreti legge oppure leggi di delega omnibus e così via. Di solito il problema in altri paesi viene risolto in altro modo, non con questa scriminante per materia estremamente difficile, perché questo esigerebbe appunto delle indagini molto approfondite. Allora si preferisce stabilire chi ha l'ultima parola, come in Francia l'ultima parola ce l'ha l'Assemblea nazionale, anche se va dato atto che assai raramente il primo ministro ha chiesto che la Camera potesse dire lei l'ultima parola. E oppure ci sono altri sistemi, come rapporti tra il Bundestag e il Bundesrat, in cui una proposta, una deliberazione del Bundesrat può essere sopraffatta da una deliberazione del Bundestag presa a una certa superiore maggioranza rispetto a quella normale. E da ultimo, questa presenza poi del Senato federale è estremamente fantomatica allo stato degli atti, perché non conosciamo quale legge elettorale sarà adottata. Potrebbe essere una legge elettorale simile a quella per la Camera, e quindi potrebbero non esserci differenze fondamentali nella loro composizione, ma poi è una Camera che è stata privata di alcuni poteri che ne avrebbero fatto forse un contropotere rispetto al primo ministro. Cioè, la prima redazione del disegno di legge, come elaborata dal Senato, prevedeva che le norme attuative degli articoli fondamentali della Costituzione, di libertà fondamentali della Costituzione, articolo 13 ad articolo 21, che queste leggi attuative fossero deliberate da una legge bicamerale paritaria, mentre invece questa garanzia è venuta meno. Ma soprattutto ci si è accorti che il Senato poteva anche offrire una resistenza sulla competenza più delicata che ha, cioè sulla fissazione dei principi fondamentali per l'esercizio della legislazione concorrente da parte delle regioni. E allora si è attribuito, con un bizzarro procedimento in cui interviene anche il capo dello Stato con una stranissima autorizzazione al primo ministro, si è dato al primo ministro Io parto proprio dalle ultime considerazioni di Alessandro Russo, e cioè non soltanto per ricostruire i passaggi delle vicende che abbiamo di fronte, ma per mettere, non voglio dire in guardia contro le semplificazioni, ma per sottolineare come anche lo sperato successo del referendum di giugno non risolverà una serie di problemi, perché quello che ci è stato detto, certo, la riforma costituzionale approvata nella legislatura passata ha le caratteristiche che ormai conosciamo molto bene, ma sappiamo allo stesso modo che questa riforma non sarebbe stata possibile senza due fattori: da una parte l'accumularsi di prassi, chiamiamole benevolmente così, e dall'altra il diffondersi di una cultura che ha teso a delegittimare in blocco la Costituzione. Non è un caso che nel momento in cui noi ci avviamo verso il referendum, e su questo, scusate se io, come si dice, la butto sull'attualità, ma non riusciamo a capire, soprattutto sul tema dell'eguaglianza, se no vi potrei dire le cose che ha sottolineato Luigi Ferraioli sono quelle che emergono da questo testo, cioè la rottura non solo della solidarietà ma anche della parità di trattamento costituzionale dei soggetti a seconda del luogo in cui si trovano a vivere. Io mi fermerei qui, non c'è da andare troppo lontano. Credo invece che questo problema della cultura giuridica sul tema dell'eguaglianza abbia finito col pesare particolarmente, e pesare non soltanto per un certo sentire diffuso, ma soprattutto perché ha indotto una legislazione che ha ridotto fortemente, attraverso la normativa ordinaria, l'eguaglianza in questo Paese. Quindi c'è, sicché anche se il referendum, ripeto, avrà successo, avremo di fronte a noi una serie di questioni che emergono in questi giorni, perché si confrontano di nuovo con un'approssimazione che io speravo, dopo la campagna elettorale, ci fossimo lasciati dietro le spalle: la tesi no al muro contro muro sul referendum, sì alla logica propositiva. Il referendum è un muro contro muro, è un sì o no. Certo, ci sono poi responsabilità di chi, facendo venir meno il testo che ha di fronte, può porre problemi riguardanti interventi necessari. E tuttavia, in questo momento, questo atteggiamento sta trascinando con sé una posizione che mi auguro rimanga almeno nel breve periodo minoritaria, ma che riemerge, e cioè che gli interventi, una volta che si sia riconosciuta la necessità di un aggiornamento della Costituzione, non possono fermarsi alla seconda parte. Questo comincia a essere detto anche con una certa insistenza, e devo dire sinceramente con un silenzio da parte di molti, che esattamente ciò che è avvenuto in passato ha consentito il solidificarsi di alcune posizioni che poi sono quelle che hanno determinato la cultura che è venuta fuori, dalla quale è venuta fuori questa riforma. È vero quello che dice Luigi Ferraioli, che poi questo è un testo figlio partiti estranei al patto costituzionale. Questo è vero, ma partecipi invece di una cultura che in questi anni ha avuto come bersaglio la Costituzione. Quindi non c'è soltanto una cesura, una soluzione di continuità, c'è anche la ripresa forte di una linea che per il momento era stata, o si era cercata di interrompere. Il caso dei decreti legge e dell'accoppiata decreti legge voto di fiducia è in questo senso molto istruttiva. Io non vorrei apparire facilmente polemico, ma c'è stato un momento in cui c'erano due slogan che reggevano: 10-100.000 decreti legge, 10-100.000 voti di fiducia. Questa era la traduzione volgare di quello che è stato per alcuni anni lunghi, fino alla sentenza della Corte Costituzionale, che ha cercato, ma non più che tanto, di porre un freno all'abuso della legislazione governativa. E devo dire che nelle ultime due legislature, non soltanto nell'ultima legislatura, ci sono state tutta una serie di operazioni, ma noi abbiamo visto un decreto legge che ha anticipato e svuotato la legge finanziaria, e tutto sommato senza che ci siano state particolari reazioni. Sono stato 15 anni in Parlamento, di fronte a un'iniziativa di quel genere il muro contro muro sarebbe stato fatto. Ma mi fermo qui. Perché ho fatto questa piccola caduta nella attualità? Perché noi ci troviamo di fronte a un testo che voi sapete bene, individua le fasce della competenza esclusiva dello Stato, della competenza esclusiva delle regioni, della legislazione concorrente. E proprio nelle materie che riguardano l'eguaglianza, quelle riguardanti i diritti civili, i diritti sociali, si prevede che sia competenza esclusiva dello Stato quella di fissare i livelli essenziali. Ora, quello dei livelli essenziali è certamente un tipo di garanzia. Vediamo quanto sia faticosa la individuazione di questa garanzia tradotta in concreto già nella giurisprudenza costituzionale di questa fase che abbiamo dietro le spalle. Ci sono sentenze che si fa veramente grande fatica a leggere e a seguire, vedendo quanto è contorto il cammino per fissare i livelli essenziali in questa materia. Ma c'è soprattutto, c'è un rischio che io mi auguro sia evitato, e cioè che ciò che è il livello essenziale diventi soglia minima. Questo è un vero problema. Io non posso dimenticare che l'articolo 36, Bronzini queste cose le conosce molto meglio di me, che prevede, che mette in relazione la retribuzione con l'esistenza libera e dignitosa del lavoratore e della sua famiglia, si tentò di interpretarla come soglia di pura sopravvivenza. Quindi non è che nella storia interpretativa non ci siano questi rischi. Ma il problema reale, di fronte alla riflessione necessaria sul tema dell'eguaglianza, e insisto, riflessione necessaria, riguarda il fatto che questo tipo di riforma costituzionale rende impossibile quelle che si chiamano politiche redistributive delle risorse primarie, che nel quadro costituzionale italiano sono una componente essenziale delle politiche dell'eguaglianza. Che cosa voglio dire? Io ho letto un saggio recentissimo, appena uscito, di Giuliano Amato, che mi ha aperto il cuore quando dice, parlando di Amartya Sen e delle cose che dice sull'eguaglianza, dice: ma queste cose ben prima di Amartya Sen l'avevano detto l'articolo 3, primo comma e soprattutto secondo comma della Costituzione. Questo mi sembrerebbe un buon segno. Poi seguire tutta una serie di dettagli delle analisi è cosa che non si può fare in questo momento, però riporta da una parte l'attenzione su un momento passaggio della Costituzione che è inciso fortemente, perché già qui è stato ricordato, non ho bisogno di insistere sui nessi tra prima e seconda parte della Costituzione, tutta la materia dei diritti è costruita intorno alla riserva di legge e all'atto motivato dell'autorità giudiziaria. Nel momento in cui si incide su entrambi questi elementi, è chiaro che la garanzia dei diritti è, non voglio dire cancellata, ma fortemente incisa, come si usa dire. E la questione di rimettere al centro dell'attenzione il rapporto tra primo e secondo comma della Costituzione come indicazione necessaria, ridando all'eguaglianza quello status di virtù sovrana che le attribuisce Dworkin, richiede una qualche riflessione. Che cosa voglio dire? quando noi ci interroghiamo per cercare di uscire anche da quella che può divenire una trappola, dalla discussione eguaglianza delle opportunità, eguaglianza dei risultati, eguaglianza, libertà, e cerchiamo poi di tradurre in un'analisi meno approssimativa queste opposizioni, ci imbattiamo appunto in un dato essenziale per la costruzione della cittadinanza, che è legato appunto alle politiche redistributive di risorse primarie, che sono l'accesso all'istruzione, che sono l'accesso al lavoro, che sono l'accesso alla conoscenza, che sono l'accesso alla casa, tutte quelle precondizioni del processo democratico che hanno consentito di uscire anche dalla pura logica della democrazia come procedura, perché la stessa procedura democratica non si avvia se non ci sono alcune precondizioni. Queste precondizioni, se noi ragioniamo nell'ottica e con il riferimento al testo che sarà sottoposto a referendum, queste precondizioni incidono fortemente sulla eguaglianza dei cittadini. Quindi